Sezione diciannovesimo di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Algi Pag. Notte d'estate, dalle odi di Friedrich G. Klopstock. Quando il tremolo splendore della luna si diffonde giù per bosci, quando i fiori e i molli aliti dei tigli via pel fresco esalano, il pensiero della tomba come un'ombra in me scende, né più i fiori né più i tigli danno odore, tutto il bosco è per me crepuscolo. Questa gioia con voi, morti, m'ebbi un tempo, come il fresco era e il profumo dolce intorno, come bella eri, o natura, in quel albor tremolo. Fine della sezione diciannovesimo.